Mila, mila, mila! 100, 1000, 10.000 volte mila! Ai, ai, ai! Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Effettivamente, cari ascoltatori, abbiamo un po' perso il ritmo con le sigle online, le sigle che potete mandare con i vostri vocali, le pre-sigle per meglio dire. Se le mandate al 349-238-6666, accogliamo tutti, pazzi, disgraziati, geni della creatività, amanti delle presigle, e noi poi le selezioniamo e le mandiamo in onda. Buongiorno e ben ritrovati, siamo con voi fino alle 10.30 anche oggi, cari ascoltatori. Potete chiamarci all'800 24 00 24 se volete tenerci compagnia, oppure mandarci messaggi vocali, sms, whatsapp, quello che volete. Il numero lo conoscete, al 349-238-6666. Oggi insieme a Carmelo Lauricella lì in regia, che vedo si agita per salutarmi, ma non ti vedo molto qui dalla ridotta di Viale Monza. Non esagerare, chi si loda si imbroda, stai attento caro Carmelo. Saluto anche Claudia Schiattone, che mi ha svelato in realtà di aver avuto un'infanzia da interista prima di essere diventata milanese. Quindi è un soggetto un po' strano a livello calcistico, ma comunque l'abbiamo accolta in redazione insieme a Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti ed Elisabetta Fusconi. Possiamo partire, ovviamente tanti temi da affrontare anche oggi. Vai Carmelo. Enthusiasm about the future. Allora, come potete immaginare, potrete immaginare, anche oggi fino alle 10.30 parleremo di questo tema del coronavirus. C'è da dire che mi ha colpito molto oggi l'intervista di Enrico Mentana, intervistato da Luca Telese sulla Verità, a dire: è veramente il momento storico in cui la comunicazione è stata letteralmente monopolizzata da questo tema. Giornali e telegiornali che sono da giorni totalmente dedicati a questo tema. Non era accaduto nemmeno dopo l'11 settembre, ha detto Enrico Mentana. Se voi andate a vedere, dopo l'11 settembre, sì, i telegiornali erano dedicati ovviamente alla tragedia delle Torri Gemelle, ma poi già a fine settembre si parlava anche di altro. Ecco, io non ne posso un po' più, devo dirlo, nel senso che è ovvio che questo tema catalizza l'attenzione di tutti, però ci sono anche altre cose. Per esempio, io oggi voglio partire da qui, è un appello che vogliamo fare, un appello a tutti voi cari cittadini. Non so se vi ricordate la vicenda, anche questa è una tragedia a suo modo, di Patrick Zaki, che è un ricercatore egiziano di nazionalità, ma che studia all'Università di Bologna, studiava all'Università di Bologna, dall'8 febbraio è in carcere con le accuse un po' strane di propaganda sovversiva in Egitto. Continuano a rimandare l'udienza, la prossima sarà il 6 aprile. Io saluto il prorettore dell'Università di Bologna, Mirko Degli Esposti, che torna con me. Buongiorno prorettore, grazie. Buongiorno a lei. Perché io non lo so, abbiamo un po' fatto calare l'attenzione, come puoi immaginare, tutto catalizzato dal coronavirus. Voi no, tra mille altre iniziative e tra mille altre emergenze. So che è nata, per esempio, una mail, io vorrei che ce la dicesse subito, un indirizzo mail per scrivere idealmente a Patrick Zaki, prorettore. Sì, è un indirizzo email, si trova sul portale di Unibo ed è fatta ancora per tenere alta l'attenzione in questo momento molto strano, molto particolare. Noi ci siamo mossi a tutela di tutta la nostra comunità studentesca e non ci dimentichiamo di Zaki. Questa è un'iniziativa per chiunque vuole lasciare un messaggio, un pensiero, e noi poi li raccoglieremo e li faremo avere con la famiglia, alla famiglia. È chiaro che adesso i canali sono complicati, sono un po' difficili, ma noi non ci dimentichiamo e teniamo sempre alta l'attenzione in questo momento ancora più particolare, ancora più delicato per Zaki stesso. Sì, allora l'indirizzo, se mi corregga, è for Patrick, è Patrick con la CK finale, è for sì. Patrick, cioè per Patrick dall'inglese, for Patrick @unibo.it. Io invito ovviamente gli ascoltatori, chiunque voglia lasciare un messaggio breve in italiano, in inglese, insomma nelle vostre lingue. Poi questi messaggi ovviamente vengono raccolti dall'Università di Bologna. È un modo per sperare in qualche modo che questi messaggi Patrick possa leggerli presto. Leggerli, che possa sentire la nostra vicinanza e che poi magari presto possa anche rimanere in contatto con noi e continuare i suoi studi, che è quello che lui desidera, come desiderano tutti gli studenti dell'Università di Bologna. Avete capito, abbiamo spiegato varie volte che in Egitto si può prolungare la detenzione preventiva in attesa di udienze che slittano, la prossima è il 6 aprile. In questa emergenza voi avete capito qual è la situazione giudiziaria di Patrick Zaki? In questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, le comunicazioni sono piuttosto rarefatte. Con questa emergenza, questa è la del terzo rinvio, la situazione ci preoccupa, perché ci preoccupa poi quello che è anche lo stato delle carceri in questa fase di emergenza, le condizioni di Zaki, e quindi in questi ultimi 10 giorni effettivamente le comunicazioni sono molto rarefatte, abbiamo i nostri contatti, stiamo seguendo, ma si sta andando avanti di rinvio dopo rinvio e certamente la situazione desta molta preoccupazione. Sì, anche perché ricordiamo, questa vicenda ricorda nel momento in cui è stato arrestato la vicenda Giulio Regeni, di cui tanto l'Italia si è occupata. È ovvio, in questo caso Giulio Regeni era cittadino italiano, Patrick Zaki è cittadino egiziano, ma ha un forte legame, che lei ci ha spiegato l'altra volta, con l'Italia, studia a Bologna, con l'importanza insomma di fare ricerca qui. È un cittadino del mondo, ecco, non è un cittadino egiziano. È un cittadino del mondo, è un cittadino della comunità universitaria europea, in questo momento sotto questa emergenza, ma è uno dei nostri studenti e faremo di tutto per tenere accese le luci e tenere alta l'attenzione. Speriamo che il 6 aprile si possa avere qualche notizia più certa sul suo stato, sulle sue condizioni e soprattutto sulle accuse che gli vengono mosse. Allora, io l'invito ancora tutti gli ascoltatori, chiunque volesse, mandare una mail anche di sola solidarietà all'indirizzo forpatrick con la CK, forpatrick@unibo.it. L'Università di Bologna le raccoglie, le terrà. È un piccolo flebile segnale di speranza per mantenere l'attenzione su questa vicenda. E intanto, professore, io la ringrazio in attesa di aggiornamenti. So e mi hanno detto che lei è anche il responsabile del tema coronavirus all'interno dell'Università di Bologna, università che sono squassate come tutte le scuole anche da questa emergenza. Lei ha capito quando si rivedrà la luce? Perché questo è uno dei temi che tutti gli italiani chiedono: dateci un segnale, un'idea di speranza. Beh, noi come università ci siamo attrezzati, stiamo lavorando 24 ore al giorno innanzitutto per tutelare la salute delle persone che lavorano all'università, adesso siamo a ranghi minimali, ma più che altro per assicurare la didattica e il proseguimento degli studi ai nostri 80.000 studenti che, anche se da casa, adesso stanno seguendo le nostre lezioni dopo uno sforzo eccezionale di tutta la comunità, del personale tecnico, amministrativo, docenti. Tutte le nostre lezioni sono online e stiamo pensando al dopo, perché poi ritorneremo diversi, ritorneremo un po' trasformati, ma certamente ritorneremo, e la nostra prima preoccupazione sono i nostri studenti che adesso possono seguire a lezioni, esami. Abbiamo laureato migliaia di studenti in questi giorni, in questo periodo un po' pazzo, però penso che sia la nostra missione, il nostro compito, e su un ruolo sociale molto importante, quello delle università, perché adesso ci sono migliaia di studenti che almeno a casa seguono le lezioni continuamente durante il giorno. Diciamo che per l'età degli studenti universitari è più facile rispetto, per esempio, ai miei figli che fanno le medie, o addirittura chi ha i figli all'elementare o al liceo. Comunque io la ringrazio molto, Mirko, degli esposti. Prorettore dell'Università di Bologna, ricorda ancora forpatrick@unibo.it. Poi, se non avete capito la mail, potete scrivere a noi alla nostra mail 100milan@radio24.it. Noi vi metteremo in contatto, nel senso che vi daremo un indirizzo, uno a uno ve lo daremo. Allora, signori. Carmelo, adesso dobbiamo parlare di coronavirus, quindi dai, vai. Intanto io, ecco, la questione della data io non l'ho capita, nel senso che tutti gli italiani vogliono sapere una data. Oggi Massimo Gramellini lo scrive bene sul Corriere della Sera nel suo commento dal titolo Gli scaglionati, attenzione con la A, gli scaglionati. Il governo è in mano a medici, scrive Gramellini, ma difetta di psicologi, altrimenti saprebbe che l'indeterminatezza genera ansia. Ed è sempre meglio indicare una data precisa e poi rimangiarsela che restare così sul vago. Invece, come se nel nostro ozio non avessimo già abbastanza cose da fare, toccano i reclusi congetturare su mese, giorno e ora in cui si tornerà a rivedere le stelle. Ecco, ovviamente l'ipotesi 1 è mai, ma non è un'ipotesi sulla quale voglio proseguire nello scritto di Massimo Gramellini. In realtà rivedremo la luce. Però capisco, gli italiani vogliono sapere una data, dateci una data, una data, un giorno, un mese. Vi segnalo oggi Federico Fubini sul Corriere della Sera, l'ha letto anche Simone Spezia, ma ve lo voglio risegnalare. Uno studio pubblicato dall'Einaudi Institute for Economics and Finance, l'EIF, centro di ricerca universitario sostenuto dalla Banca d'Italia ma indipendente nella ricerca, fa delle proiezioni. Attenzione, prendete carta e penna, cari ascoltatori, proiezioni regione per regione, perché questo studio dice che se rispettiamo le regole, se le curve elaborate da modelli matematici sono quelle che abbiamo visto negli ultimi giorni, si potrebbe arrivare, tutti questi se condizionale, si potrebbe arrivare il Veneto a quota zero nuovi contagi il 14 aprile. Avete segnato, cari amici veneti? Se si mantengono le regole condizionali, 14 aprile, zero contagi. Per il Lazio, 16 aprile, Lazio, 16 aprile. Poco dopo, 18 aprile, Calabria e Campania. Poi la Toscana più lenta, la Toscana il 5 maggio, l'ultima, il 5 maggio. Comunque dal 16 aprile al 5 maggio dovrebbero esserci tutte a contagio zero. Emilia-Romagna 28 aprile, la Lombardia, che è quella più colpita, 22 aprile. Questo, secondo lo studio dell'Einaudi Institute for Economics and Finance, se rispettiamo le regole, se le curve dei contagi proseguono secondo gli ultimi dati statistici. Allora, vi siete segnati, queste sono un po' le date. Poi che cosa succederà dopo? Ovviamente non è che poi liberi tutti, apriamo gli steccati e andiamo a fare i comportamenti soliti di prima. Bisognerà riaprire le attività con calma, stare a un metro di distanza, portare le mascherine, abituarsi ad andare al cinema, magari stare un sedile sì uno no, a teatro pure. È così, ragazzi, dovete farvene una ragione. In tutto questo, prima di andare alla mia successiva ospite, io non ho capito questa storia di Beppe Grillo del reddito universale, che devo dire ha avuto poco spazio sui giornali. Cioè, Beppe Grillo, l'abbiamo detto anche ieri, prevede, propone, rilancia questo nuovo mondo utopico nel quale tutti possano avere un reddito in base alla nascita, ricchi e poveri, tutti, dal figlio dell'ultimo umile lavoratore al figlio di Berlusconi, un reddito per nascita. Cioè, io non capisco, sinceramente, invece di eliminare le mille condizioni che impediscono di creare posti di lavoro, che questo è il vero problema, che ne so, invece di abbassare le tasse, che invece di far pagare il 60% uno possa pagare il 30%, come succede in paesi democratici, invece di pagare tutti i debiti della pubblica amministrazione alle imprese, invece di togliere tutta la burocrazia che ti fa aprire un'attività in 4 mesi invece che in 4 giorni, come dovrebbe essere in un paese normale. Se si facesse tutto questo, si creerebbe i posti di lavoro a bizzeffe. Invece di questo, niente, vogliamo il comunismo di Stato, la mancetta, la paghetta da parte dello Stato a tutti, ricchi e poveri, forse in egual misura, non lo so, penso in egual misura da quando nascono. Il reddito universale, il reddito di nascita. Io non capisco. L'altra idea è quella di dimezzare gli stipendi dei parlamentari. Vabbè, questa è un po' populista, è passata di moda. Comunque, se volete la rilanciamo, ditemi la vostra all'800240024, dimezzare gli stipendi dei parlamentari. Si calcola che si otterrebbero 80 milioni di euro l'anno di risparmi. Vabbè, vabbè, questo è. Allora, sono le 8:22 minuti. Eh sì, le 8:22, magari sono rimasto con l'ora, le 9:22 minuti, ma c'è un tema in tema di coronavirus che è stato, secondo alcuni, sottovalutato, e cioè il ruolo sociale e la condizione dei bambini, i nostri bambini. Io voglio salutare a questo proposito Chiara Borgia, che è con noi. Chiara Borgia è pedagogista, vice direttrice di Uppa Magazine. Buongiorno dottoressa Borgia, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Allora, voi come Uppa sostenuto una petizione che gli ascoltatori trovano su change.org, una delle piattaforme più conosciute, si può anche firmare. Guarda, io ce l'ho davanti, siamo arrivati a 19.106 firme, adesso vediamo, la lanciamo e la trovate su change.org con questo titolo: Bambini in quarantena, non dimentichiamo i bisogni dei più piccoli. Voi sostanzialmente dite: capiamo l'emergenza, capiamo tutte le regole, eccetera, ma questi bambini in casa non stanno bene, e chiedete che possano avere, chiamiamolo, un'ora d'aria, che fa un po' carcerati, però un po' la situazione è questa, dottoressa Borgia, o no? Sì, diciamo che la nostra richiesta parte dalle considerazioni che ci arrivano dalle famiglie, dai genitori, considerazioni rispetto ai problemi che si stanno creando con un isolamento prolungato dei bambini. Io vi dico subito che la nostra richiesta non è precisamente l'ora d'aria, o non solo, questo. Sì, l'ho letto, è un po' più complesso, si parla del benessere dei bambini, ecco. Sì, si parla del benessere dei bambini, ecco, quello che a noi arriva come professionisti dell'infanzia, ecco, che sono molto a contatto con i genitori e con le famiglie, è il fatto che i bambini in questo momento stanno cominciando ovviamente a soffrire dell'isolamento, e quindi si stanno creando una serie di difficoltà che sono relative a diversi aspetti, sicuramente, ecco, la necessità di muoversi, di avere un po' di respirare, sicuramente sì, l'aria aperta, ma anche altri, ecco, altri aspetti educativi a cui forse non si pensa, ad esempio il massiccio utilizzo della tecnologia. Non è una novità in campo educativo la preoccupazione rispetto all'utilizzo del tablet, del cellulare, che addirittura i genitori spesso propongono proprio come un calmante, passatemi il termine, no? Quindi come soprattutto una di questi tempi, poi, cioè, ecco, già in tempi normali, figurarsi in questi tempi, come dire, è aumentato molto in dosi massicce. È difficile riuscire a organizzare la giornata in casa con i bambini, partiamo da questo, e soprattutto ci sono delle forti disuguaglianze, perché non tutte le famiglie nel nostro paese hanno la possibilità, non so, di avere il giardino, ma neanche il balcone o il terrazzo dove poter far uscire un po' i bambini. Ci sono situazioni gravi che in questo momento non sono purtroppo sotto l'occhio di tutti, ma sono quelle legate ad esempio alle situazioni di bambini con disabilità. O ancora a quelle famiglie che vivono in 40 metri quadri, o ancora dove c'è un solo genitore che magari deve anche lavorare. No, ma è chiaro che voi analizzando tutta la situazione, è chiaro che poi l'aspetto di questa proposta che più fa discutere oggi, ho visto sui giornali, La Stampa dedica mezza pagina a questo, devo dire, con esperti dell'Istituto Superiore di Sanità che subito frenano e dicono: no, attenzione, non è il momento di allentare i cordoni, capiamo le situazioni di difficoltà, però se ci dite date la possibilità ai bambini di uscire anche per un'ora, un'ora. Non è il momento, ecco, glielo dico francamente così. Questa è la posizione delle autorità, dottoressa Borgia. Poi, Leggevo. Leggevo anch'io, devo dire. Allora, la cosa che mi sembra interessante, che forse era uno degli obiettivi della nostra petizione, è quello proprio di sollevare un dibattito intorno ai bambini. Sì. Quindi, ecco, intanto sono contenta, su questo punto ne stiamo cominciando a parlare. Non c'è un'unica soluzione e non ce l'abbiamo in tasca, assolutamente, mm-hmm. perché, ecco, anche confrontandoci con diciamo con i nostri professionisti pediatri che vivono e lavorano in tutta Italia, sappiamo benissimo che non è così facile e scontato in questo momento poter consentire ai bambini di uscire. Perché? Sì. Perché i territori sono diversi. Bambino, sì, poi bambino vuol dire adulto a seguito, i bambini se si incrociano in quartiere difficilmente possono essere tenuti separati, figurarsi se uno incontra l'amico, l'amichetto, cioè c'è il rischio, dicono gli esperti, di creare quel traffico umano che in questo momento va evitato. Ecco. Certo, ecco, queste sono delle difficoltà di cui noi siamo, ecco, ben consapevoli. Io penso che ci voglia però un'attenzione a livello istituzionale rispetto al problema, tra virgolette, alle necessità che sono proprio necessità fisiologiche dei bambini, fisiologiche. Per poter ipotizzare delle soluzioni che sicuramente saranno diverse da territorio a territorio, però la risposta ci deve essere, l'attenzione ci deve essere da parte delle istituzioni. Ad oggi tutto ciò che riguarda i bambini è stato quasi del tutto affidato ai genitori. No, certo, voi sottolineate questo fatto, cioè forse la premessa è ancora più importante della petizione in sé importante, cioè dire che in tutto questo i decreti voi non avete visto nulla di sguardo attento al benessere dei bambini. Io voglio ricordare dalla petizione su change.org: bambini in quarantena, non dimentichiamo i bisogni dei più piccoli. No, glielo dico perché la sto guardando, siamo partiti a 19.106 firme, adesso siamo già a 19.143, insomma la gente va su change.org, firma, crea un dibattito. Ci sono sindaci che dicono sì, facciamo uscire i bambini. Guardi, le faccio sentire anche Renzi, che in questi giorni ha delle posizioni tipo riapriamo il paese prima di Pasqua, eccetera. Si è anche schierato su questo. È il senatore Renzi, ex premier. Vai, Carmelo. Darei da subito un'ora d'aria ai bambini. Io vorrei che fosse raccolto l'invito di chi si occupa di pedagogia, di educazione dei minori. Noi abbiamo dei bambini che sono chiusi in casa da 3 settimane, fargli fare una passeggiata non è un male, ovviamente con tutti i crismi di regolarità, perché non è che possiamo portare i cani e non i bambini fuori, è vero che i cani hanno, diciamo, un motivo fisiologico, i bambini no. Vabbè, dottoressa Borgia, al di là di come la pensi lei politicamente, non ci interessa, non è questo il tema, poi è un tema trasversale, tutti siamo genitori. Renzi dice perché i cani sia i bambini, no? Al di là del paragone. Al di là del paragone è vero, ecco, questa sottolinea nuovamente quello che dicevo prima, si è parlato ovviamente delle necessità fisiologiche degli animali, in questo momento gli adulti, pur con le restrizioni che sono necessarie, però escono almeno per fare la spesa. Ecco, ci sembra veramente che i bambini siano stati dimenticati, ma anche perché poi una delle riflessioni che si faceva è quindi che cosa possiamo fare oltre il pensare a delle modalità affinché i bambini possano pian piano prendere quest'aria, soprattutto se l'isolamento continua. Quindi noi dobbiamo essere capaci di non pensare soltanto al qui e ora. Nelle situazioni di emergenza bisogna riuscire a prevedere anche quello che potrà accadere, quindi ovviamente all'inizio abbiamo pensato subito alle prime misure necessarie, attenzione a non sottovalutare l'impatto però che queste misure possono avere sui più fragili, quindi ma è chiaro, le sottopongo un messaggio molto duro evidentemente di un ascoltatore che dice anche in tempi normali da sempre i bambini bambini sono gli untori. Non mi sembra il caso in questo disastro ora di, come dire, di permettere loro di uscire. Non lo so se sia padre questo ascoltatore o ascoltatrice che ci ha mandato, sia madre. Sta di fatto che il problema c'è. Il problema c'è, non è neanche facile. Ecco, io contesto l'idea di dire, come ha detto il senatore Renzi, rispettando le regole si può uscire. Insomma, capre e cavoli, in questo caso è un po' difficile, cioè se i bambini escono un'ora, immagino che possono essere tutti alla stessa ora, a meno che non si faccia l'ordine alfabetico per quartiere, c'è il rischio un po' di un sovraffollamento. Rispettare le regole è un po' difficile mantenere entrambe le situazioni, no? Io leggo dietro questo messaggio, ecco, dell'ascoltatore, ci può essere sicuramente la paura dei genitori, ma di tutti noi, la paura del contagio, la paura veramente che i bambini possano essere sia veicoli ma anche essere loro contagiati, anche se sappiamo che fortunatamente, ecco, per i bambini, diciamo, la malattia in questo momento pare avere delle conseguenze, diciamo, molto meno gravi rispetto che agli adulti. Leggo questa paura e penso che bisogna cercare di far sì che la gente collabori anche nel rispetto delle regole. Allora, per collaborare, sì, per far sì che collaborino, però dobbiamo aiutarli in qualche modo, cioè dobbiamo dargli dei segnali che stiamo pensando anche a loro. Allora, un'altra cosa che mi saltava agli occhi, per esempio guardando le FAQ del Ministero, abbiamo parlato tanto ai genitori su come insegnare le norme di igiene ai bambini, quindi gli abbiamo insegnato a lavarsi bene le mani, a starnutire nel gomito, giustissimo. Non abbiamo minimamente però detto ai genitori come fare, ecco, con altre norme che sono assolutamente fondamentali in questo momento, ad esempio regolate gli orari del sonno dei vostri figli, non metteteli davanti al tablet, al cellulare prima di andare a dormire, cercate, anche se siete chiusi in casa, aprite il balcone, chi ce l'ha, scendete nel cortile, fate fate dei turni, queste sono cose che sembrano veramente banali, ma io vi assicuro che non tutti i genitori, non tutte le famiglie sono, ecco, abituati allora, a farlo. No, facciamo così. Allora, io intanto nel ringraziarla, Chiara Borgia, ripeto, è una delle promotrici, insomma, di questa, si spende per questa campagna che trovate su change.org, pedagogista, vice direttrice di Uppa Magazine. La campagna è Bambini in quarantena, non dimentichiamo i bisogni dei più piccoli. Devo dire che siamo arrivati a 19.195 firme. Ci sono anche molti critici, come l'ascoltatore di cui ho letto il messaggio, altri che dicono: ah, ma insomma, ma questi temi, ma che tema è? Ma che tema è? Ma voglio dire, ma ci sono milioni di italiani che hanno dei bambini, forse lei, ascoltatore, non ha un bambino e non capisce questa esigenza. Abbiamo parlato dei problemi dei cani, abbiamo parlato dei problemi dei runner, credo che parlare dei milioni di italiani che, viva Dio, hanno ancora dei figli in casa sia un problema abbastanza trasversale. Sala interessante. Comunque andiamo un attimo in pubblicità e poi Vestagliona Manera sarà con noi. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, pensa ai bambini che nascono e muoiono in guerra, noi i bambini nostri che devono stare a casa. Insomma, ci siamo dimenticati di tutte le tragedie che ci stanno nel mondo adesso per questo coronavirus. La proposta di Beppe Grillo è semplicemente demenziale, demenziale, demenziale. Scusate, per il reddito di nascita avremmo diritto anche agli arretrati? Ma quale reddito universale? Questo è pazzo. Milan, sì, se mia nonna aveva le ruote era un carriolo. Ciao. Un carriolo, una carriola si dice a Milano, però forse un carriolo si dice dalle tue parti, caro ascoltatore. Se rispettiamo le regole, se le curve matematiche, se metà aprile, inizio maggio, zero contagi. E a quel punto Leonardo Manera che fa? Si barrica comunque senti, in casa. Senti dai messaggi senti. Degli ascoltatori, serpeggia anche un certo nervosismo che sale, che cresce. Mamma mia, ragazzi. Senti, se parli dei bambini in Italia ti sei dimenticato dei bambini in guerra. E se dici forse a maggio, uno ha scritto sì del 2021, ma risposto via sms. Mamma mia, ragazzi. Comunque, che Portaseccia. Io attenzione Italia, io ho la soluzione sì. per far uscire attenzione. I bambini di casa. La sto dando all'Italia attenzione. Intera. Attenzione, bene. Travestire i bambini da cani. Allora, bisogna travestire da cani, gli metti una mascherina allora. Da cane, sì, il la collare. Loro vanno in giro a quattro zampe, li porti fuori e ogni tanto alza la metterlo gambina. Al guinzaglio, esatto, dire ma cosa fai? Devo portarlo a fare pipì. Cioè, ma che cane mio strano, figlio. Ma il mio cane è sempre stato così, il mio cane. E lui fa, wow, ecco così, porti fuori allora, per un'ora. Allora, sì. Papà degenere, ti ricordo che tu non lo sapevi, ma un ascoltatore ci segnala che oggi è San Beniamino. San Beniamino, grazie all'ascoltatore, ovviamente. Perché sì, sì, no, come non sapevo che oggi ti è... confermo. No, non sapevo che oggi è il 31 marzo, perché abbiamo perso la cognizione del tempo e quindi non immaginavo che oggi fosse già il 31 marzo, quindi manca poco all'uscita da tutta questa crisi, no? Se entro il 5 maggio tutti noi allora, saremo a contaggio zero. Allora, guarda, oggi c'è questo studio del Corriere, se il Veneto tende statisticamente verso quota zero al 14 aprile, sono 14 giorni, il Lazio il 16 aprile. Poi a stretto giro Calabria e Campania, si arriva fino al 5 maggio la Toscana, l'Emilia Romagna 28 aprile, la Lombardia 22 aprile. Se. La Basilicata, per esempio, di cui non parla mai nessuno. Cacchio, Molise e Basilicata. Ma la Lucania, aspetta un attimo, vorrei fare una sfida Luchetti, anche se ho il grafico qua davanti così per il gusto di darle un po' fastidio. Però allora la Basilicata parla intanto Leonardo. Basilicata dove eccolo, 7 aprile, attenzione, attenzione, ma certo, perché la Basilicata ha pochissimi casi. Allora 6, allora diamo l'elenco. Se 6 aprile Trentino Alto Adige, ragazzi, gli efficientissimi del Trentino Alto Adige, primi anche in questo, 6 aprile, vale. Poi Basilicata, Liguria, Umbria, 7 aprile. Siamo proprio, poi, manca pochissimo. Manca pochissimo, Valle d'Aosta 8, Puglia 9, Friuli Venezia Giulia 10, Abruzzo 11 aprile, queste sono le prime. Poi, quindi hai detto Sicilia, Liguria 7 sì, aprile? 7 aprile. Quindi per Pasqua da Milano possiamo riversarci tutti a Varazze. No. Tutti a Varazze! Sto dicendo che quello è il, come dire, il se, il contagio zero. Cioè non ci saranno ulteriori contagi. Poi, attenzione, ha dimenticato il Molise, mi suggeriscono. Ma no, ci sono anche tutte le altre poi. Poi c'è Sicilia, Veneto, Piemonte, Lazio, Calabria, Lombardia. Effettivamente non c'è il Molise. Emilia Romagna, Toscana. Non c'è il Molise. Attenzione, cittadini. Quindi del Molise, in questo grafico del Corriere della Sera è proprio vero che il Molise non esiste. Il Molise non esiste. Qui è accertato da questo grafico. Sì, il Molise non esiste. L'importante è che per Pasqua si possa andare tutti in Liguria serenamente a cercare parcheggio lì a Varazze, da Iguegli, a Spotorno. Non è così. Neanche a Bergeggi. Non ti potrai muovere, comunque non potrai muoverti. Però vorrei lanciare una sfida a Luchetti, perché tu sei un distrattone, caro Manera, ma non hai sentito il giornale radio, che verrà firmato a breve un accordo per dare anche dei fondi al settore dello spettacolo, anche degli artisti dello spettacolo, non solo degli artisti dello spettacolo. Quindi adesso sfida Luchetti, vorrei sapere esattamente di cosa si tratta e soprattutto quanti soldi andranno in tasca a Leonardo Manera e quando, perché è fondamentale sapere tutto. E com'è la procedura, anzi Miriam, se gliela fai tu il modulo e gliela compili e la mandi alle autorità di competenza, così Manera c'ha solo i soldi in saccoccia. Infatti, perché molti pensano che tutti quelli che vanno a spettacolo siano tra miliardari, e allora invece per dimostrare che non è così, insieme all'amica Rita Pelusio, che è un'altra comica, vogliamo fare un gruppo che si chiama Manovalanza Comica, dove sì. Si dimostra che insomma ci sono persone che invece hanno stipendi, anche diciamo guadagni assimilabili agli stipendi, e poi tanti tecnici fonici che lavorano nel settore, insomma non sono tutti ricchi, quelli che, anzi certo. La maggior parte no. Anzi, se infatti, volete anche dai. Mandare qualcosa sì. Qui a me, proprio personalmente, ogni contribuzione, sì, certo, fruscianti banconote. Mi mandate stai chiedendo denari sonanti agli ascoltatori, ma tu sei veramente da arrestare. Perché non mandate la forza pubblica? Qual è il commissariato? C'è un commissariato di polizia a due passi, se non sbaglio, ma in Piazzale certo, Udine. Sì. In via Maniago, subito sì, dietro Piazza sì. Udine. Esatto. Se c'è qualche volante della questura di via Maniago, zona Piazza Friuli, Piazza Udine, sapete benissimo dove abita Manera. Io non lo posso dire pubblicamente, ma sta chiedendo dei soldi. C'è un motivo, perché tanti hanno in casa delle banconote da 500 euro che adesso non sanno più come smerciare, diventa difficile. Ecco, se le avete in casa, portatele qui, che io poi in qualche modo lo trovo. Ecco, faccio anche un servizio sociale, va bene? Sì, allora mi dicono che in Veneto ci sia anche un detto, se nel senso di sete, se l'è morto a cavallo dell'Adese, cioè è morto di sete a cavallo dell'Adige, non lo so, sì. Mi scuso anche per la pronuncia sicuramente impropria. Sai, comunque dovremmo chiamare un comico, si chiama Flavio Aurelio, che tu conosci, che aveva una poesia sì. Che si chiamava proprio Se. Ecco, dove diceva ma tutti i vari se della vita. E prima devo appurare una cosa. Secondo te alle 10 e un quarto, dalle tue parti arriverà a raggiungere Crosta? No, voglio saperlo. Devo capire la risposta è ma. Non lo so, devo ancora recuperare il file. No, per capire, vediamo. Perché magari è il caso di chiamare Flavio Aurelio al volo a questo punto, non lo so. Comunque, sentiamo Massimiliano che ci chiama da Monza. Buongiorno Massimiliano. Eccoci. Buongiorno Alino, buongiorno sì. A tutti e complimenti per la compagnia che ci fate al mattino. Sì, grazie. Allora, un breve intervento sulla questione bambini e uscite. Allora, premetto che io ho due bambine di 9 anni. Mm-hmm. E quindi, diciamo così, credo di sapere di che parlo e quindi vivo con combattimento e drammaticità, diciamo così, la questione, quindi non la giudico a cuor leggero. Ecco. Sì. Però voglio dire una cosa, l'isolamento e la reclusione a tutti fa male. E io fin dagli inizi, quando l'hanno proposta e imposta, avevo dei dubbi sul fatto che dovesse essere fatta in modo così radicale, capito? Però se lo hanno... guardi che per molti è anche poco radicale, cioè in Cina per esempio è stato davvero un isolamento in Cina. Tant'è che adesso mi giungono notizie che in Cina non ne possono più, si stanno pure rivoltando, ma vabbè, discorso questo. Quello che volevo dire è che se hanno deciso una misura di questo genere, ahimè questa misura purtroppo deve valere anche per i bambini e per loro a maggior ragione, perché se tu li porti al parco o comunque li porti fuori o li porti uno alla volta a prendere aria, e allora a quel punto veramente sembra come il cagnolino che lo porti a fare i bisogni, oppure il concetto di andare fuori vuol dire per forza di cose che si incontrano e giocano. Ma non c'è dubbio, è quello che ho detto anch'io, scusi che devo andare al traffico, è un po' il tema per cui non si farà, e dalle autorità superiori hanno già detto, gli scienziati eccetera, di dire no, non si può fare questa deroga. Si voleva lanciare anche un dibattito, il tema però c'è, molti bambini insomma sono un po' reclusi nelle loro case. Andiamo a sentire il traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Guardate che ci portate al collasso. Bene, hanno preso a volo questa parola. Si sono entusiasmati, vedete che sta arrivando il collasso. Porta seccia, l'unico collasso è arrivato nel vostro cervello. C'è un buco nero fra le vostre orecchie. con una tale forza di gravità che rende impossibile l'uscita non solo della luce e delle radiazioni, ma anche del pensiero. Sta arrivando il collasso, non è arrivato niente. Abbiamo sollevato con forza il problema delle forniture. Porta seccia. Tanto in poi ti chiamerò così. Sei un porta seccia, Manera. Ma perché in questo momento di difficoltà non vai a fare l'autore di De Luca? L'autore di De Luca. Guarda che ne ha sarebbe... di migliori di me, sicuramente, o lui stesso, oppure. Come ci siamo arrivati in questo paese? Sfida Luchetti, per adesso è stata emessa una circolare che riguarda tra l'altro i lavoratori dello spettacolo per ottenere 600 euro per il mese di marzo per chi ha reddito 2019 non superiore a 50.000 euro. Sì, ciao, vabbè. Sì, Manera, sei fuori, mi spiace. Cioè, sono fuori, sono fuori. Sette castelli e otto magioni e 5 milioni di reddito, sei fuori. Vabbè, però tanti tuoi colleghi che invece hanno bisogno, invece c'è questa circolare. Tu sei fuori, certo. sei fuori. Hai fatto c'è tutto Franco, tu, va bene. Se mi spiace, sei fuori. Cioè, mi spiace, ma sono contento. D'altronde, i ricconi si riconoscono. Franco dalla provincia di Forlì Cesena, ecco. Buongiorno Milan, buongiorno Manera. Eccoci. Io mi collego a un discorso che faceva Manera tempo giorni fa sul ricongiungimento dei figli. Io vi espongo brevemente il mio piccolo e grandissimo problema. Io vivo a Cesena per motivi di lavoro e la mia famiglia, mia moglie e i miei due gemelli vivono in Liguria. Io per fare l'isola, le regole e tutto, praticamente sono dai primi giorni di marzo che io per questioni lavorative sono rimasto a Cesena. Cosa è successo? È successo che il mio problema adesso, io non posso, io è un mese che non vedo i miei figli, che tutte le sere li sento per telefono e pianti e lamentele. Ieri il mio compleanno, diciamo, il papà non viene, il papà ci ha abbandonati, così, perché non posso ricongiungere i miei figli. Io, ma quanti anni hanno, scusi, i figli? Hanno 13 anni, sono due gemelli. Quanti? Ma scusi. 13 anni. Guardi, 13 che anni, adesso... cioè, capiscono l'emergenza, nel senso, si può spiegare che non è che lei li abbia abbandonati. Però, no? Ha ragione, però sa, lei deve capire che noi, praticamente io sto 4 giorni giù e gli altri 3-4 giorni sto sempre con i miei figli, siamo sempre insieme, siamo una famiglia molto unita, facciamo le cose sempre tanto insieme. Sì. Capiscono che c'è questa situazione qui, però sentono molto il ruoto del papà. E le sere, certo, quando io ti devo sentire, che mi dicono non vieni neanche questa settimana, il pianto, si commuovono, purtroppo mi commuovono. È chiaro, non è facile, Franco, non è facile, un eufemismo, è straziante. Cioè, ma lei non li vede per sua responsabilità personale, diciamo, perché la legge prevede invece che sia possibile. No, assolutamente, guardi, Manera, allora, ascolti, ho chiamato. Cioè, per i genitori separati prevede che sia possibile. Se lei guarda la nuova autocertificazione, c'è proprio... Sì, certo, in quel caso è un altro discorso e paradossalmente anche... Esatto. Io non sono separato. No, ma questo è incredibile. Cioè, lei adesso non vogliamo, tanto non ci sono i cognomi, eccetera, ma lei, Franco, vive in una situazione di armonia con la sua moglie, compagna, non lo so. Perfettissima. Quindi, questo è il paradosso: che se fosse separato potrebbe. Però scusi, c'è il ricongiungimento. Non si può tornare ancora, non lo so, perché hanno cambiato mille volte le regole. Non si può tornare a ricongiungersi al nucleo familiare. Cioè, fare ritorno alla propria casa, si potrà fare solo se un membro sfida della Luchetti, famiglia, questa, cioè, No, è pazzesco. Ma anche per io, un mese, cosa faccio adesso? Aspetto maggio per vedere ancora. Cioè, o mi metti è abbastanza incredibile, cioè, che lei non possa tornare a casa sua. A me risulta un po' strano, però adesso approfondiamo. Intanto, Franco, la ringraziamo per questa testimonianza sicuramente anche drammatica. Non lo so, Leonardo, ti dice sì, sembra un paradosso, ma no, dico che veramente sembra un paradosso. Cioè, se fosse separato sì e invece no, ma non lo so. Vediamo di approfondire. Leo. Va bene. Allora, uno dei grandi cambiamenti dovuti al coronavirus è che le persone stanno molto tempo in casa a cucinare. A quanto pare nei supermercati vanno a ruba farina, lievito madre per fare pane e pizze fatte in casa ed è la grande rivincita dei carboidrati. Il carboidrato che per anni ha subito il distaccato disinteresse soprattutto da parte femminile si sta prendendo la sua rivincita. Ormai a mangiare pane erano rimasti solo degli inguaribili ghiottoni che amavano accompagnare ogni pietanza con dei gustosi bocconi di pane. Dopo gli spaghetti e i maccheroni al ragù, la scarpetta. Poi pucciare la mollica di pane nel sughetto dell'arrosto oppure semplicemente godere della presenza di un croccante sfilatino per tutto il pasto. Erano rimasti in pochissimi a farlo e i carboidrati, il pane, ormai era messo da parte dai più. Il pane si interrogava malinconico sul senso della vita, essendo appunto stato messo da parte quasi da tutti. Si consumavano più volentieri dei surrogati del pane, per esempio gallette di ogni tipo, al farro, al riso soffiato, ai cinque cereali, che noi cercavamo di autoconvincerci fossero saporite e provocanti al pari del cugino più blasonato o almeno più popolare. I cesti del pane che una volta nei ristoranti erano abbondanti, poco alla volta si erano ridotti sempre di più, fino a diventare una anemica fetta, messa lì più per educazione che per reale convinzione di un suo uso. Resisteva un po' in trincea il pane integrale, non tanto per il gusto, che è senz'altro meno godibile di quello del pane bianco, ma solo perché contenendo più fibra è più adatto ad assolvere una delle funzioni principali del nostro organismo, perché si sa che l'umana felicità passa anche dalla tazza del water. E il pane bianco era lì, amareggiato, sempre più malinconico, consapevole di essere in qualche modo a fine ciclo nel nostro evoluto mondo occidentale, così attento all'immagine e alla linea. I panini arrivavano in panetteria ogni mattina pieni di speranza, immaginando di trovare ancora qualche estimatore, ma poi a sera si ritrovavano ancora nei cesti, invenduti e meditabondi, insieme ai grissini, che storicamente nelle panetterie sono quelli che restano. Poi invece il coronavirus, che sta cambiando il mondo, ha cambiato anche le sorti del pane. Giovani donne in carriera si sono ritrovate a impastare come massaie del XIX secolo. Uomini che fino a ieri si occupavano solo di finanza e benchmark hanno di colpo riscoperto il fascino del pan carré, aperto a ogni esperienza di farcitura. Immaginando che il coronavirus ci confinerà ancora per un po' nelle nostre case, badiamo un po' meno all'immagine e non ci preoccupiamo dei chilotti che si accumulano sotto ai tutoni senza cintura. Tornerà poi il tempo delle tristi insalate accompagnate da sfittiche gallette, ma intanto il pane bianco soprattutto, si prende la sua rivincita e rinasce come un'araba fenice dal suo forno, consapevole ormai di avere un ruolo anche nella dieta del manager o della manager in carriera che fino a ieri inorridiva la sola idea di avere a che fare, anche da lontano, con un carboidrato che potesse minare anni di palestra, spinning e tapis roulant. Come lo dice alla fine? No, ridillo bene. Tapis roulant. Ho fatto francese alle medie io. Sì, bravo, io no, per esempio. Allora, Francesco da Frosinone, ce la facciamo prima del giornale radio. Vai, Francesco. Dottor Milan, la saluto e complimenti sempre. Io vi rinnovo sempre. Allora, i complimenti, grazie. Perché non è la prima volta che intervengono. Se dovesse scadere il tempo, però vorrei essere richiamato. Allora, vi volevo esprimere questa considerazione. E sul coronavirus, no? Adesso io sono un avvocato io insegno nelle scuole superiori. Allora, com'è possibile oggi richiedere da parte del governo un'istruzione telematica? Perché adesso ci stanno chiedendo questa cosa, no? Di fare le lezioni, le aule virtuali, le lezioni telematiche, cioè, quando noi abbiamo nelle scuole dei banchi e delle sedie che risalgono ai decreti, ad una legge che è un decreto delegato del 1974. Ma cosa c'entrano oggi? Oggi vogliono una scuola telematica, però con delle strutture che sono praticamente quando io avevo 10 anni usavo i banchi e le sedie di oggi. Oggi un ragazzo che sta in terza media. Però sono due problematiche diverse. È un problema quello che è emerso, però è diverso dalla, come dire, la competenza tecnologica di chi entra nelle scuole, no? Voglio fare una considerazione. Lei se la sentirebbe di mettere i treni a idrogeno giapponesi che vanno a 360 all'ora sui binari degli anni 60 di Trenitalia? se la sentirete. Ho capito. Vabbè, allora, è un tema. Secondo me sono due questioni diverse, perché non è che si usano le infrastrutture tecnologiche della scuola, ci sono le piattaforme digitali parallele alla scuola, non è che bisogna utilizzare le tecnologie, le linee wifi delle scuole per fare la scuola telematica. Quindi il paragone sui treni è un po' improprio. Non è che metto il treno su un'infrastruttura vecchia, utilizzo la tecnologia con la tecnologia privata tra insegnanti e allievi. Però il tema che lei lancia delle scuole vecchie, vetuste, è un tema certamente che c'è. Devo andare però al giornale radio, c'è questa questione, precisazione da fare, perché molti mi scrivono: ma come, non ci sono le Marche in questa classifica del se non c'è il Molise? Effettivamente mancano Marche, Molise, Campania e Sardegna, perché per queste quattro regioni i dati fino a questo momento non giustificano ancora previsioni di riduzione che si possono fare. Quindi Marche, Molise, Campania e Sardegna non ci sono in questo studio sul Corriere della Sera. Dai, giornale radio. Uno, nessuno, 100 Milan. Niente, Beppe Grillo sta sempre una ventina d'anni avanti rispetto a noi italiani e anche dimostra una grandissima empatia verso l'umanità, e chi lo contrasta non capisce una mazza. Ciao! Milan, non hai detto però i dati IBAN di Manera, dai che facciamo un bonifico. Sì, a cavallo dell'Ades è morto dalla sé. Ecco appunto, come ci ha detto il nostro ascoltatore, grazie per questo detto veneto. Sì, i dati IBAN di Manera li trovate sul sito leonardomanera.it. No, per aiutare Leonardo Manera. Non rispondo a queste provocazioni, io ho chiesto solo banconote, Fruscianti banconote. da 500 euro. Sì. Oh, devo, prima di salutare il nostro grandissimo ospite, di rispondere all'ascoltatore che ci chiamava da Forlì, che incredibilmente non torna a casa, non vede i figli da un mese, ma non perché è separato, cioè perché sta benissimo con la moglie, ma non può tornare a casa. Effettivamente, ci dice Miriam Lucchetti, che il governo ha rimosso la dicitura "è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza", motivo per cui la risposta alla domanda "è posso rientrare a casa se non sono separato" è no. Rimane fare rientro in caso di motivi dettati da lavoro, salute o assolute emergenze, ma non è consentito far rientro a casa per scelta. Ma è incredibile questa cosa. Ma io dico all'ascoltatore, ma dica che c'è un problema di salute e torni a casa. Cioè, anche salute mentale, per esempio, di salute mentale. Lo stai incitando a mentire, praticamente. Ma no, salute mentale, ho un problema di salute mentale, sto male, voglio tornare da mia moglie e miei figli. Dice, e ti dicono, presenti la perizia psicologica. Sì, ecco, la burocrazia italiana. Ma noi vogliamo salutare, ma perché non dai tu un po' di banconote fruscianti da 500 euro a Leonardo Manera? John Peter Sloan! John, mettiamo un po' di banconote. Good morning, sentite che bello, cioè, good morning, e ti apre il mondo. Good morning. Come va? Vuoi la verità? Sì, se si può dire, sì. Allora, no, in realtà stavo andando, in inglese si dice going bananas, no? Andando alle banane. Alle banane, sì, no, l'ultimo primo periodo stiamo diventando completamente pazzo, poi ora sto un po' meglio. Vabbè, prima di tutto io l'avevo visto un po', prima di tutti questa... Cioè, l'avevo capito dove stava arrivando questa situazione, quindi sono andato al supermercato a svuotare, cioè, tutte le essenziali, tipo Guinness, Tuborg, Heineken, tutte le cose importanti. Le ho portato a casa. Sai che veramente mio cognato, in Inghilterra, mia mamma sta in un residence, lei ha 75 anni, ci sono già due casi nel suo residence, loro sono in 20. E questa mattina mio cognato è andato a portare... la consegna delle cose, è vero questo, eh? E allora l'elenco è due bottiglie di brandy e quattro casse di birre. No, e io ho detto, no, ma ti giuro, una volta a settimana lui va. E io ho detto, ma sì, ma cibo, ha scritto qualcosa giù di cibo. Ma no, non c'era no. più spazio nel carrello. Aveva birra e brandy a posto, sì. birra e brandy. E allora, una vale. settimana, 4 casse di birra e 2 brandy. Fatti, no? Oh ragazzi, no, però Jupiter, ma abbiamo visto che anche in Inghilterra hanno fatto gli stessi errori che abbiamo fatto noi. Boris Johnson no, addirittura che molto rideva. Più e poi, molto più grande. Infatti io, la prima volta che Boris Johnson ha parlato, perché io sto seguendo sia Inghilterra che Italia ora, la prima sì. messaggio di Boris Johnson, praticamente senza scherzo, guarda, non sto scherzando, lui ha detto ok, state a casa, è importante che state a casa, però è anche importante prendere aria, basta che vai solo con la famiglia, senza dire i numeri, quindi se vai sì. in giro con la famiglia ok, però dovresti stare a casa perché l'aria fa bene. Era tutto un casino, c'è tutto un contraddizione. No, in Inghilterra purtroppo sono stati, cioè loro pensavano, siccome noi abbiamo fatto 2 guerre, noi non abbiamo, figurati, siamo dopo 2 guerre con i tedeschi, cosa vuole farci questo virus? E ora stanno cadendo come i birilli. Sì, tu sei sì. in Sicilia adesso, giusto? Sono vicino al mare, sì, è completamente vuoto, non c'è nessuno in giro. Ci sono io e i cani e stiamo facendo lo stesso vita, io e i cani, cioè siamo uguali, stiamo guardando fuori dalla finestra e ci eccitiamo tutti quando passa qualche trattore ogni tanto, ma non c'è niente. Tra l'altro c'è un grande mistero, questi reali inglesi sono sempre più misteriosi. Il principe Carlo dopo 7 giorni è positivo, ma dopo 7 giorni hanno comunicato che lui la quarantena l'ha finita, non si sa perché, 7 giorni, vabbè, la moglie... vabbè, ma dai, ma che è? Perché? No, cioè... vabbè, è importante che rimani positivo. Comunque, no, dai, che cattivo, Jumpy the Sloan. No, ma anch'io sono positivo. No, no, allora, ieri parlavano i giornali inglesi, infatti, di Meghan e Harry sì. che ci salutano dall'America. Vabbè, per non parlare di Trump ovviamente, che secondo Trump a Pasqua si torna tutti a lavorare, però io, Leonardo, io non so tu, ma io ho scritto anche l'altro giorno in Facebook use it or lose it, che praticamente to lose it in inglese vuol dire perdere la testa, quindi o si usa questo tempo, cioè si perde la, cioè secondo me è tutto un modo di pensare, cioè io ora sì. Secondo me devi avere 2 cose al giorno da fare, anche piccoli, però devi avere un programma, devi avere qualcosa, cioè non neanche sì, stare davanti alla televisione, no dai, cioè questo è un momento che secondo me possiamo essere creativi, possiamo... Ma io gliel'ho detto a Leonardo, gli ho detto voi artisti, voi perché non trovate dei modi, insomma, per voi che avete queste peculiarità. Ma io nel mio piccolo faccio questa trasmissione la mattina, la sera qualche volta faccio una diretta a Facebook, ho iniziato a scrivere lo spettacolo nuovo, faccio ginnastica per tenermi un po' in forma, insomma, queste cose. Guarda, senti. E io ti seguivo finché hai detto ginnastica, poi mi hai perso. Però cioè io però ti dico la verità, io che sto guardando molto social, soprattutto in Inghilterra, sono gli artisti che soffrono di più. Cioè, soprattutto sì. cioè, i miei comici, attori preferiti inglesi hanno tutti ricominciato a bere. Cioè, questa gente che comunque, per esempio, il stand-up, quello che io e Leonardo l'abbiamo fatto per anni. Cioè, sì. i cabarettisti stanno diventando pazzi, hanno perso lavoro, non hanno più, cioè quello che vivono su spettacolo sul pubblico sì, però no, dai, no, finirà, so, però... John Peter, finirà 2 mesi, dai, e poi finirà, no? Dici? E in Inghilterra dicono 6 mesi. Sei mesi, sì. No. Sì, anche perché normale, gli spettacoli sì. saranno l'ultima cosa che si tornerà a fare, insomma, no? Perché non è vista sì. come un'attività primaria, quindi si procrastinerà più tardi possibile. Che dobbiamo dire? Buon Natale, allora, John Peter. Non so, Vuoi farci gli auguri di buon 2021? Happy New Year! Ma voi due siete in studio adesso insieme, vicini? No, siamo a casa, infatti questa è la tecnologia, io sono a casa mia, Leonardo è a casa sua, però la radio è bella perché con la tecnologia si può fare tutto. John, no? Sai cosa si può fare per così contrastare questa mancanza da palco? Quando la situazione sarà lievemente migliorata, si può convocare a casa una persona che ride, così. Quando tu dici delle cose le fa. No, ma quello è l'unica persona che viene a casa mia, è quella che porta l'acqua, perché la birra non ci sono più. E lui, lui lascia e scappa, perché comunque si è rotto un po' le palle. Mia ragazza, l'ultima cosa che vuole è che faccio battute, quindi... Sto con i cani, però ora dopo un mese sto cominciando ad accettare le cose. L'unica cosa è il tempo, non riesco a tenere traccia di tempo. Voi? Il tempo, cioè nel senso che non sai, ma Leonardo non sapeva neanche che oggi fosse il 31 e l'onomastico di suo figlio, per dire. No, lascia perdere il 31, non so se è lunedì, mercoledì, addirittura. Ma sai, facendo radio questo ti aiuta. Tu hai detto Natale, mi aveva fatto un pensiero, ho detto mai Natale. Non si capisce, effettivamente è tornato anche il freddo, quindi potrebbe anche essere così. Vabbè, John Peter, almeno stai scrivendo qualche... dacci una brevissima lezione d'inglese, dai, una parola che dobbiamo imparare, almeno sfruttiamo il tempo per imparare un'espressione in inglese, dai. Ok, no, vabbè, lo scrivi... Allora, per quanto riguarda self-isolation, perché questo... Self-isolation. Self-isolation è quello che stiamo facendo. Use it this time, questo tempo che abbiamo... Use it, usala o perdi la testa. So use it or lose it. Bello. Use it or lose it. Yeah. Bravo, bravissimo. Use it or lose it. Vai, Leonardo, aspetta, fai provare Leonardo. Allora, vai. Ti dico anche come è scritto. Use it or lose it. Così è giusto. Vabbè, come è scritto. Sì, è scritto perché così. Tu stai prendendo Heineken. Grazie a John Peter Sloan. Grazie, un grande cari. Abbraccio. Buon Natale. Ovviamente, Leonardo, è così. Sì, si perde un po' il tempo, effettivamente. Tu, però fare radio aiuta in questo. Sai che c'è la radio da disciplina. Dalle 9 alle 10 e mezza, poi forse dalle 9 alle 11 prima o poi siamo qua. Se lo dici tu, da lunedì al venerdì. Tu prima l'hai detto con un po' di disprezzo, faccio questo programma al mattino. Ho notato della vena di disprezzo, sì. No, anzi, non saprei come fare senza questo, veramente, sarebbe veramente in grave crisi senza questo programma. Ti aggrappi al mattino. Veramente a tutto. Prima lo disprezzavi, chi disprezza compra, adesso non vedi l'ora di fare questo programma al mattino. Che vergogna di uomo, traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, c'è Antonio da Piacenza. Buongiorno Antonio. Buongiorno Milan. Tre cose velocissime. La prima, una battuta volevo fare. So che sei milanista, il Milan non perde da 20 giorni. È già è vero, è una gran notizia, è una grande notizia. Poi, il Milan è imbattuto da 20 giorni. Da 22 grande, giorni che non perde, Milan. Grande, seconda Antonio, cosa, grande. Seconda cosa, prima hai parlato, no, del tuo, scusami, hai parlato del taglio degli stipendi dei parlamentari, no? Io vorrei che stasera Conte facesse un decreto di 18 e dicesse: il primo d'aprile si sospendono tutti gli stipendi dei deputati e senatori, fino a data da destinarsi, tutti gli stipendi, ma proprio il completo stipendio. Ti spiego perché. Ma perché è un po' populista come manovra. Cioè, ma allora, populista, poi i calciatori si stanno riunendo per farlo, giusto? Già la Juve l'ha fatto, lo faranno anche gli altri, perché sento, un altro calciatore lo farà. Quindi io dico, sarebbe bellissimo se lui andasse a fare questa conferenza stampa, che ormai è un rito alle 18, e dicesse... Rito. La differenza, Antonio, è che i soldi risparmiati dalla Juve non è che la Juve li mette a disposizione dello Stato, cioè la proposta di Grillo è tagliamo i soldi e diamolo allo Stato. La Juve se li tiene, giustamente. Maggior ragione. A maggior ragione avrebbe fatto, perché fare un ospedale costa 20 milioni di euro. Risparmiarne 160 vorrebbe dire come minimo poterne costruire 5, visto che sono negli ultimi 10 anni. Vabbè, insomma, diciamo rilanciarsi sul portafogli dei parlamentari, questa è la sua proposta. Ma erano tre le cose che voleva dire. Sono soldi degli italiani, quindi sono dei parlamentari, sono nostri dipendenti. A me mi mettono in cassa integrazione, no? E loro non possono sospendersi. Lo stipendio. Non sono dipendenti, sono rappresentanti, sono molto, molto grillini come termini, però insomma ci sta, immagino che lei... La terza proposta voleva dire tre cose, no? No, la terza era legata ai calciatori. La terza è Forza Milan. La terza è Forza Milan, che va bene sempre. Lo urli esatto. Al vento, a Piacenza. No, forza vorrei lo scudetto all'Atalanta. Così sarà contento il nostro Belotti. Va bene, Antonio, grazie. Allora, io adesso non lo so, perché entro in un dubbio atroce alle 10:22 minuti, cioè mi aggiro qui in casa e voglio capire se in Piazzale Udine si sia presentato in questi momenti il ragionier Crosta. Il ragionier Crosta, dirigente dell'Agenzia delle Entrate. La cercavamo. Stiamo vivendo, caro Milan, tempi bui, chiude tutto, si fattura meno, ma soprattutto temo che i versamenti nelle nostre casse saranno sospesi per un po'. Non importa, con pazienza torneremo alla normalità e noi dell'Agenzia delle Entrate avremo modo di recuperare. Nel frattempo non ci fermiamo. Restiamo a casa, sì, ma a casa vostra. Infatti appena prima dell'annuncio del presidente Conte, che ha fatto diventare tutta Italia zona rossa, abbiamo posizionato delle piccole telecamere in posizioni strategiche, grazie alle quali potremo ricavare degli indizi sulle vostre disponibilità economiche. Per esempio, proprio stamattina abbiamo rintracciato una signora che estraeva dalla borsetta un contenitore di amuchina per lavarsi le mani, molto bene per l'igiene, ma molto bene anche per noi. Infatti un contenitore di amuchino oggi è indicativo di reddito presunto di 500.000 euro. Ora, addirittura per l'amuchina. L'amuchina! Ma contribuenti, fa schifo, cioè, vediamo meglio qualche esempio concreto di come funzionerà il nuovo redditometro. Per esempio, possedete uno spazzolino da denti, caro Milan, da denti? Più di uno, sì. Bene, sì. Tutti hanno uno spazzolino da denti, a parte quelle coppie stucchevoli che condividono anche quello. Ma voi avete scelto il migliore spazzolino, elettrico, con testina compatta, setole morbidissime, setole in cashmere, ottenuto dal sottovello della capra Hircus, originaria delle regioni montuose dell'Asia. Le lame rotanti del vostro spazzolino sono così potenti che ci potete tagliare il prato, però eliminando la placca con delicatezza, perché ogni volta che provocate un trauma alla gengiva voi le pagate 10 sedute dello psicologo. E per uno spazzolino così performante non potete certo usare un banale dentifricio da supermercato. Voi avete chiamato un sommelier del dentifricio, un dentifriciologo, e gli avete fatto preparare la combinazione perfetta tra gusto e azione protettiva. A tutto questo aggiungete scovolino con fibre biosostenibili, filo interdentale in seta tussà prodotto dal bozzolo dei bachi selvatici e colutorio a base di menta di pancadieri. I vostri denti saranno anche molto bianchi, ma il vostro conto corrente tenderà presto al rosso. Reddito presunto 1 milione di euro! E sono tasse, ma per uno spazzolino! Tasse. Possedete un cuscino? Possedete un cuscino? E il cuscino che usate per dormire? Un cuscino ergonomico a cui appoggiate la testa anche mentre siete stravaccati sul divano a vedere il vostro film preferito? E per creare l'atmosfera del cinema avete fatto i popcorn nella vostra macchina per fare i popcorn? I popcorn! Avete assunto un bigliettaio per strappare i biglietti davanti alla porta della cucina? Avete messo le icone uomo e donna sulla porta del bagno? I bagni! Perché voi avete più di un bagno? Avete 2, 4, 10 bagni! 3 salotti, 2 soppalti, 1 sala da bagno, 7 cabine armadio! La cabina armadio! Abitate a Buckingham Palace, il vostro impianto luce è così spettacolare che gli organizzatori del Super Bowl vi hanno chiesto come avete fatto. L'acustica è così perfetta che l'orchestra della Scala viene a fare le prove da voi. Quindi, se possedete un cuscino, reddito presunto 5 milioni di euro! E su quelli tasse! Arrivederci dal ragionier Crosta, dirigente dell'Agenzia delle Entrate! Mamma, che ansia! Grazie, ragioniere, avrà saputo, la cercavamo da ieri. anche forse da venerdì, però alla fine puntuale affaccendato in altre faccende affaccendate, aspettando Federico Taddia, reddito presunto 10 milioni di euro con i suoi giochi, gioca, questo, prendete l'altro, organizzate la vostra casa così. Federico Taddia, dove vivi? In un maxi castello, tassate Taddia. Bene, grazie Rangele Crosta, mi sembra un ottimo slogan. Federico, eccoci qua, buongiorno. Buonasera, ciao a tutte. Sì. Allora, siamo a proporre i giochi di oggi. Sì. Vai, momento ricreazione, come sempre. Allora, oggi, se c'è tempo, due, se no uno al volo. Allora, partirei con Spotty House. Lo sapete, insomma, vi sto proponendo un po' di giochi per divertirsi anche in casa. Spotty House, si fa la colonna sonora della casa. Allora, so Ale che tu non sei d'accordo, però a me piace invece cercare altri usi dello smartphone. Quindi diamo lo smartphone in mano ai ragazzi. Funzione registratore, ok? Quindi non siamo connessi, ma andiamo a registrare. E lì spediamo all'interno della piccola o grande casa che abbiamo alla ricerca di almeno 10 suoni, che è una roba strana, perché 10 suoni è un cassetto che si apre, ma solo noi sappiamo che fa quel suono strano, il rumore della caldaia, il suono anche che si sente il rumore del vicino. Insomma, la missione è riuscire a registrare almeno 10 suoni della colonna sonora della nostra casa. E poi si parte ovviamente con il gioco. E poi bisogna indovinarle. E lì, esatto, una volta che il figlio o i figli hanno fatto la loro colonna sonora, e mettono alla prova i genitori, se vogliono, e bisogna andare a indovinare Spotty i suoni. Spotty House è come sempre un bel modo per scoprire robe che non si sanno della propria abitazione, che insomma è la nostra convivenza. Non lo so attuale. Se ci sta l'ultimo gioco di 30 secondi. Lo teniamo per domani, se vuoi. Ti dico solo che si chiama gonfiabile, e il gonfiabile in questo caso è Maniera, però lo teniamo per domani. No, teniamo per domani, fai come Maniera, quando non vuole lavorare tieni i pezzi, ha scritto il pezzo, dice no, ma dai, lo facciamo domani, così oggi non lavora. Stupendo, c'è questa pigritudine che si sta espandendo. Grazie Federico Taddia, dai, ci troviamo domani. Federico. Leonardo, devi lanciare il messaggio al mondo, lo sai che è il tuo momento col quale si chiude la trasmissione. Sì. Apri la finestra, lancia il tuo ruolo di battaglia. Questa volta lo faccio dire a mio figlio Beniamino. Vai, Benia. San Beniamino, auguri. Bello. Ridillo bene, Benia. Viva la vita! A domani. Sì, sì. A domani. Nessuno, 100.000.